governo finché l'inevitabile gruppetto. Ad alta voce, Rolando Ravello legge Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald, traduzione di Tommaso Pincio. Restai fino a tardi quella notte. Gatsby mi chiese di aspettare finché non si fosse liberato, e io mi attardai nel giardino finché l'inevitabile gruppetto di bagnanti non rientrò di corsa, infreddolito ed euforico dal nero della spiaggia, finché le luci in alto nelle stanze degli ospiti non vennero smorzate. Quando in ultimo scese i gradini, il suo viso abbronzato era insolitamente teso, i suoi occhi erano lucidi e stanchi. «La festa non le è piaciuta», disse immediatamente. «Ma certo che sì. Non le è piaciuta», insisté. «Non si è divertita». Era silenzioso, e io immaginai che fosse sprofondato in un indicibile scoramento. «Mi sento lontano da lei», disse. «È difficile far sì che capisca. Ti riferisci al ballo?» «Il ballo?» Liquidò con uno schiocco delle dita tutti gli inviti a ballare fatti nella serata. «Vecchia Lenza, il ballo è irrilevante». Voleva solo che Daisy andasse da Tom e gli dicesse «Non ti ho mai amato». Dopo che lei avesse cancellato 3 anni con quella frase, loro due avrebbero potuto decidere in merito alle questioni più pratiche. Una di queste riguardava la possibilità, una volta che lei fosse libera, di tornare a Louisville e sposarsi in casa di Daisy, come se quei 5 anni non fossero mai trascorsi. «E lei non capisce», disse. «Non è più come una volta. Restavamo seduti per delle ore». Si interruppe e cominciò a fare su e giù per un viottolo desolato disseminato di bucce, cotillon e fiori schiacciati. «Non pretenderei troppo da lei», azzardai. «Non si può rivivere il passato». «Non si può rivivere il passato», esclamò incredulo. «Caspita se si può». Si guardò attorno agitato, come se il passato fosse acquattato tra le ombre di casa sua a portata di mano. «Sistemerò ogni cosa. Riporterò tutto com'era», disse annuendo con determinazione. «Se ne accorgerà». Parlò davvero molto del passato, e io conclusi che volesse ritrovare qualcosa, forse una qualche opinione che aveva di sé e che era andata perduta nell'innamoramento per Daisy. La sua vita era stata confusa e disordinata da allora, ma se fosse riuscito a tornare per una volta a un determinato punto di partenza e ripetere tutto, passo per passo, avrebbe potuto scoprire cos'era che... Una sera d'autunno, 5 anni prima, stavano camminando lungo la strada, sotto le foglie che cadevano, ed erano arrivati in un punto senza più alberi dove il marciapiede era imbiancato dalla luna. Si fermarono e si voltarono uno verso l'altra. Era una serata fredda, carica di quella misteriosa eccitazione tipica dei cambi di stagione. Le tenui luci delle case pulsavano nell'oscurità e c'era come un fremito, un rimescolio tra le stelle. Con la coda dell'occhio, Gatsby vide che le lastre del marciapiede in realtà formavano una scala che portava a un posto segreto tra gli alberi. Avrebbe potuto salirne i gradini, forse da solo, e una volta lassù avrebbe succhiato la pappa della vita, trangugiato il latte incomparabile della meraviglia. Il cuore gli batteva sempre più veloce mentre il viso bianco di Daisy si avvicinava al suo. Comprese che quando avesse baciato questa ragazza e unito per l'eternità le proprie visioni indescrivibili al respiro fugace di lei, la sua mente avrebbe cessato di scorrazzare libera come la mente di Dio. Così attese, ascoltando per un momento ancora il diapason che era stato battuto su una stella. Poi la baciò. Al tocco delle sue labbra lei sbocciò per lui come un fiore e l'incarnazione fu completa. In tutto ciò che disse, fin anche nel suo terrificante sentimentalismo, mi parve di rammentare qualcosa. Un ritmo elusivo, un frammento di parole perdute che avevo udito non so dove molto tempo addietro. Per un attimo una frase tentò di prendere forma nella mia bocca, e le mie labbra si dischiusero come quelle di un muto, come se a trattenerle fosse una forza maggiore di un filo di aria sbigottita. Ma non emisero alcun suono, e quel che ero quasi sul punto di ricordare restò inespresso per sempre. Oh, how I love you, honey, hush. Your lovely cheeks make roses blush. Your lips are divine, they taste just like wine. They seem to whisper of love. Oh, how I love you, honey, hush. My heart is giving me the rush. I'm dreaming my dreams, I'm scheming my schemes. Please tell me yes, my turtle dove. Your eyes shine like stars up above, making me know that I'm in love. Oh, please, don't do this to me. Tell me you'll be always with me. Oh, how I love you. My heart is singing like a thrush. I'm saving my dimes. I hear wedding chimes. My sweet, my lovely honey hush. Fu quando la curiosità intorno a Gatsby era al suo culmine che un sabato sera le luci della sua casa mancarono di accendersi e oscuramente come era iniziata la sua carriera di trimalcione ebbe termine. Mi resi conto soltanto per gradi di come le automobili che imboccavano trepidanti il suo viale si trattenessero un minuto appena per poi allontanarsi immusonite. Temendo che si fosse ammalato, mi decisi a fare un salto per sincerarmi. Un maggiordomo mai visto prima e con un viso truce mi squadrò sospettoso dalla porta. «Il signor Gatsby è malato per caso?» «No». Dopo un attimo di pausa aggiunse «Signore», con riluttanza esasperante. «Non lo vedo da un po' ed ero piuttosto preoccupato. Ditegli che è passato il signor Carraway». «Chi?» domandò a lui senza il minimo garbo. «Carraway». «Carraway, va bene, glielo dirò». Sbatté la porta di scatto. La mia donna finlandese mi informò che Gatsby aveva licenziato tutti i domestici una settimana prima e li aveva rimpiazzati con una mezza dozzina di nuovi, i quali non si recavano mai al villaggio di West Egg a farsi adescare dai commercianti, ma ordinavano moderate quantità di provviste per telefono. Il ragazzo della drogheria aveva riferito che la cucina aveva l'aspetto di un porcile e l'opinione generale in paese era che i nuovi arrivati non fossero affatto domestici. Il giorno seguente Gatsby mi chiamò al telefono. «Sei in procinto di andartene?» domandai. «No, vecchia Lenza. Ho sentito che hai licenziato l'intera servitù. Volevo qualcuno che non facesse pettegolezzi. Daisy viene piuttosto spesso, di pomeriggio». Dunque il caravanserraglio al completo era caduto come un castello di carte davanti alla disapprovazione che aveva scorto nei suoi occhi. «Sono persone alle quali Wolfsheim voleva fare un favore. Tutti fratelli e sorelle. Gestivano un piccolo albergo prima». «Capisco». «Stava chiamando su richiesta di Daisy. Mi sarebbe piaciuto andare a pranzo da lei domani? Sarebbe venuta anche la signorina Baker». Mezz'ora dopo Daisy telefonò di persona e sembrò sollevata nell'apprendere che sarei venuto. Stava succedendo qualcosa. E tuttavia non potevo credere che avrebbero scelto quell'occasione per una scenata, in special modo per la scenata non poco sconvolgente che Gatsby mi aveva prospettato in giardino. Il giorno seguente si arrostiva. Fu forse l'ultimo e di certo il più caldo giorno dell'estate. Quando il mio treno riemerse dal tunnel e la luce del sole l'inondò, soltanto i fischi roventi della National Biscuit Company rompevano la sua bollente quiete del meriggio. I sedili di paglia della carrozza scottavano sin quasi al punto di prendere fuoco. La donna al mio fianco traspirò con delicatezza per un po' nella sua camicetta bianca e poi, mentre il giornale le si inumidiva fra le dita, si abbandonò disperata al calore intenso esalando un verso di desolazione. La sua borsetta a busta sbatté in terra. «Oddio!» rantolò. La raccolsi con un piegamento stremato e gliela restituì, tenendola col braccio teso e solo per la punta di un angolo, a significare che non era oggetto di alcuna mira da parte mia. Tuttavia, ognuno dei presenti, inclusa la donna, ebbero lo stesso sospetto. «Che caldo!» disse il controllore alle facce che gli erano note. «Un tempo infernale, caldo, caldo, caldo! Non ne avete abbastanza, voi? Non vi pare che faccia troppo caldo? Non...» La tessera di abbonamento ferroviario rientrò in mio possesso con impressa la macchia scura della sua mano. Chi mai poteva pensare con quel caldo a labbra rosse da baciare o a teste che inumidissero il taschino del pigiama all'altezza del cuore? All'ingresso di casa Buchanan soffiava una debole brezza che trasportò lo squillo del telefono fuori verso Gatsby e me in attesa sulla soglia. Il cadavere del padrone, tuonò il maggiordomo nel microfono. Sono spiacente, madame, ma non possiamo agghindarlo. Fa troppo caldo quest'oggi per toccarlo. Ciò che in effetti disse fu: sì, sì, ora vedo. Mise giù il ricevitore e si avviò verso di noi, il volto lucido, per prendere i nostri cappelli di paglia rigida. Madame vi attende in salotto, esclamò indicando la direzione senza che ve ne fosse bisogno. Con quel caldo ogni gesto in eccesso costituiva un oltraggio alle normali scorte di vita. La stanza, ombreggiata a dovere da grosse tende, era buia e fresca. Daisy e Jordan erano distese su un enorme divano come idoli d'argento il cui peso impedisse alle bianche vesti di sollevarsi alla ronzante brezza dei ventilatori. «Non possiamo muoverci», dissero insieme. Le dita di Jordan, la cui abbronzatura era velata dalla cipria, restarono per un istante nelle mie. «E il signor Thomas Buchanan, l'atleta?» mi informai. Proprio in quel momento ne udì la voce, aspra, smorzata, roca, che parlava al telefono nell'ingresso. Gatsby si fermò al centro del tappeto cremisi e si guardò attorno con occhi affascinati. Daisy lo osservò e rise alla sua maniera, dolce ed eccitante. Un minuscolo soffio di cipria si levò in aria dal suo seno. «Si mormora», bisbigliò Jordan, «che ci sia la ragazza di Tom al telefono». Restammo in silenzio. La voce nell'ingresso si alzò di tono, infastidita. «Perfetto, quando è così l'auto non te la vendo. Non ho alcun obbligo nei tuoi confronti. E non gradisco affatto che mi disturbi con simili questioni all'ora di pranzo». «Tiene la forcella abbassata», disse Daisy cinicamente. «No, le assicurei io. È una storia vera. Ne sono stato testimone». Tom spalancò la porta, ne ostruì il passaggio per un momento con il corpo massiccio ed entrò trafelato nella stanza. «Signor Gatsby», tese la sua ampia mano aperta con un disappunto ben dissimulato. «Lieto di rivedervi, Nick». «Preparaci qualcosa di freddo da bere», si lamentò Daisy. Non appena Tom ebbe lasciato la stanza, lei si alzò e andò da Gatsby, tirando a sé il suo viso per baciarlo sulla bocca. «Lo sai che ti amo», mormorò. «Dimentichi che c'è una signora presente», disse Jordan. Daisy si guardò attorno dubbiosa. «Bacia Nick, tu». «Ma che ragazza sconcia e volgare». «Non mi importa», esclamò Daisy, e accennò qualche passo di tip-tap sul bordo di mattoni del caminetto. Quindi si ricordò del caldo che faceva e si mise a sedere sul divano, contrita, proprio mentre una tata, fresca di lavanderia, entrava in salotto con una bambina. «Angelo benedetto», canticchiò tendendo le braccia, «vieni dalla mamma che ti adora». La bambina, lasciata dalla tata, corse per la stanza e si barbicò intimidita al vestito della madre. «Il mio angelo benedetto! È stata la mamma a incipriarti questi capelli gialli? Tirati su adesso e di ciao!» Io e Gatsby ci chinammo a turno e stringemmo la sua riluttante manina. Dopodiché lui seguitò a guardare la bambina con stupore. Penso non avesse mai davvero creduto alla sua esistenza fino a quel momento. «Mi sono vestita per il pranzo», disse la bambina, voltandosi tutta eccitata verso Daisy. «È perché la mamma voleva che facessi una bella figura». Piegò il viso sull'unica ruga che le segnava l'esile collo bianco. «Sei un sogno, tu, il mio piccolo sogno adorato». «Sì», convenne la bambina con calma. «Anche la zia Jordan ha un vestito bianco. Ti piacciono gli amici della mamma?» Daisy la fece girare così che avesse davanti Gatsby. «Non li trovi carini?» «Dov'è papà?» «Non somiglia a suo padre», spiegò Daisy. «Somiglia a me. Ha preso da me sia i capelli che l'ovale del viso». Daisy tornò a sedersi sul divano. La tata si avvicinò di un passo e allungò la mano. «Vieni, Pammy». «Ciao, dolcezza». Con lo sguardo contrariato e volto all'indietro, la bambina, obbediente, prese la mano della tata e si lasciò condurre fuori della porta proprio mentre tornava Tom, facendo strada a 4 ginrichi pieni di ghiaccio tintinnante. Gatsby prese il suo bicchiere. «Hanno certamente l'aria di essere freddi», disse con tensione palpabile. «Bevemmo a sorsate lunghe e avide. Ho letto da qualche parte che il sole diventa più caldo di anno in anno», disse Tom affabilmente. «Pare che a breve la terra cadrà dentro il sole, anzi no, un attimo, forse è il contrario, è il sole che diventa più freddo ogni anno che passa». «Venite fuori», propose a Gatsby, «vorrei che deste un'occhiata alla casa». Uscì insieme a loro in veranda. Sul verde dello stretto che ristagnava nella canicola, una piccola vela strisciava lenta verso il mare più aperto. Gli occhi di Gatsby la seguirono per qualche istante. Sollevò la mano e indicò il lato opposto della baia. «Abito giusto di fronte a voi». «È vero». I nostri occhi sorvolarono le aiuole di rose, il prato arroventato, i residui filacciosi di quei giorni torridi ammassati lungo la riva. Lentamente le ali bianche della barca si mossero in direzione del limite che segnava il blu freddo del cielo. Davanti a noi si distendevano un oceano frastagliato e un'abbondanza di isole beate. «Ecco cosa vuol dire per me godersi la vita», disse Tom, con un cenno del capo.